un'azienda storica del nostro territorio, purtroppo nell'ultimo decennio ormai siamo alla quarta procedura di mobilità, un'azienda che aveva avuto fino a 500 dipendenti e rischia, dopo questa ennesima ristrutturazione scelta come strada dall'azienda come unico taglio di 70 ulteriori lavoratori, di arrivare a 170 dipendenti e quindi dando anche dal nostro punto di vista poche prospettive senza investimenti per un sito complessivamente nel nostro territorio, quindi l'ennesima multinazionale che sceglie di ridurre i costi tagliando posti di lavoro. Cosa è dovuta a questa crisi però? A questa crisi è dovuta un ulteriore calo, dicono loro, di produzione di motori. Nel 2015 nell'integrativo aziendale volevano utilizzare strumenti tali quali flessibilità di lavoro perché prevedevano comunque che il mercato fosse in crescita, quindi nel giro di 2 anni la Solo Motori Minarelli invece in realtà perde quasi 15.000 motori all'anno, no? Quindi è un qualcosa che è riconducibile all'azienda e non tanto al settore, perché ci sono altre aziende che comunque dal 2008 poi si sono riprese. Questa è un'azienda che non si è mai più ripresa dal 2008. Infatti la domanda che ti volevo fare è proprio questa, perché ci sono aziende dello stesso settore che hanno vissuto un momento di difficoltà ma poi sono ripartite, qui invece no. Qui è evidente che il gruppo Yamaha Europa, quale Motori Minarelli fa capo, deve poi rispondere al gruppo generale, quindi è evidente che noi abbiamo bisogno di un piano industriale ampio per capire cosa effettivamente loro, come loro ci vogliono posizionare, non solo nel nostro paese ma a livello poi anche di un'eventuale ripresa, perché al nostro parere così non ci sono le condizioni. Oggi ci sono le assemblee dei lavoratori, qual è l'umore, cosa si sta dicendo insomma? Ma guarda, abbiamo fatto intanto quelle del primo turno stamattina dove c'è stata un'ottima risposta sia di adesione, e susseguentemente abbiamo fatto già un'ora di presidio dei cancelli perché la procedura di mobilità in realtà ci parte in queste ore, quindi abbiamo avuto solo un incontro con l'azienda e il 2 saremo in Confindustria per entrare nel merito e nel vivo della discussione, no? Quindi assemblee partecipate, scioperi partecipati, è evidente che è una partita talmente delicata, essendo la quarta mobilità in 10 anni, che tutte le forze vanno gestite al meglio, quindi lavoreremo insieme ai lavoratori e parleremo con i lavoratori per far sì che tutte le iniziative che facciamo portino a casa un risultato per i lavoratori stessi.